Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. D'accordo con lei, si poteva far tutto, però in 70 anni non si è fatto niente. E quelli che guidano il fronte del no sono quelli che per decenni hanno promesso riforme che non hanno fatto, lasciando il paese in questa condizione. Tra avere tutto e subito e avere qualcosa per mettere in moto la macchina, preferisco qualcosa perché l'Italia è ferma e per dare una mano ai poveri e al ceto medio bisogna cambiare le cose, non difendere la casta come state facendo anche voi. Il problema non è che noi siamo contrari a cambiare la Costituzione, noi siamo contrari a questi cambiamenti perché li consideriamo malfatti e sbagliati. Noi pensiamo che qui non si va al superamento del bicameralismo, si passa da un bicameralismo perfetto a un bicameralismo malfatto. Se ho offeso qualcuno con l'espressione accozzaglia, mi scuso, ma io intendevo fare un complimento. Posso chiamarla coalizione, ma preferisco chiamarla accozzaglia perché penso che tra Berlusconi e Magistratura Democratica, Monti e Salvini, Landini e La Russa, non ci siano tutti questi punti in comune. Forza signori, dovete rassegnarvi, tra poco il referendum arriva il 4 dicembre e quindi dovete rassegnarvi a questo ultimo rush di campagna elettorale. Come mi devo rassegnare io? Bacca la pallone per Suso in area, palo sul sinistro, palo sul destro, Suso! Meno di vantaggio ancora! Sì. Cosa avevo detto venerdì, caro Peter Bescapè, caro Lorenzo Nespoli? Cosa avevo detto? Come finisce il derby? Avevo detto finisce 2-1. Avevo detto finisce 2-1. Dai, Marione Adinolfi, vai, Marione, vai. Neanche per sogno, ma il sogno ce l'ha regalato Peris. Ce l'ha regalato Peris. Ma chi se ne fa? Allora, una cosa che ma togli sto schifo. Una cosa che non sopporto sono quelli che degli juventini, come si sa, a mio fratello per primo, che dicono grazie, così siamo a più 7. Ma chi fa la corsa sulla Juve? Ma chi se ne frega della Juve che vincerà con 15-20 punti di distacco lo scudetto? Non ce ne frega niente di andare a prendere la Juve, anche perché non riusciremmo mai. Insomma, quindi, ma chi se ne frega del distacco della Juve? No, a noi degli Juventini non ci interessa nulla. Sì, comunque hai fatto bene a ricordare che abbiamo più 7 dopo 13 giornate di campionato. Ma perché c'è qualcuno che può andare a prendere la Juve? Ma chi se ne frega? Ma vincete. Domenica prossima saremo campioni di inverno. Vincete con 40 punti di distacco. Comprate Donnarumma. Comprate Suso. Oh, c'è una nuova promessa. Suso, dai, tirate fuori 80 milioni con la vostra arroganza. Bam! Sbatteteli sul tavolo e compratevi Suso. È forte, eh? Guarda, Ciccio, che è forte. Tutto nostro. Guarda che per giocare in Coppa Italia qualche scampo di partita potreste prenderlo questo qua. La butta dentro ogni tanto all'incrocio. Dai, fate così. Allora, intanto dovete rassegnarvi, alle 8.30 avremo Matteo Renzi, ospite, Presidente del Consiglio. Wow, Perché fai wow? Voglio salutare insieme a Mariona Dinolfi, l'arrogante juventino che oggi sistemeremo per bene, l'interista Umberto Brindani, direttore di oggi. Porca miseria, io non capisco perché il giorno dopo il derby tu debba invitare uno juventino in trasmissione. Questo è veramente un colpo basso. Sì, pensa basso. A me che invito uno juventino, un interista, proprio, cioè, una roba pazzesca. Avevo detto 2-1 Umberto, 2-1, avevo urlato venerdì, abbiamo la registrazione, la mando, ho detto finirà 2-1, ero lì al 93esimo a dire. Devo dire una cosa, Mario, tu sei superstizioso? No, tu Umberto sei superstizioso? No, perché è arrivato e ovviamente era totalmente disinteressato alla partita questo ragazzo americano che ospito in questi giorni, però è arrivato alla fine guardando il cellulare, mi guarda e fa: ah, ma se adesso, e se invece finisce, se adesso segna gli altri, se segnano gli altri che succede? E io: Jordan, un punto a testa, però pam, Perisic, gol. E vabbè. E lui... Sai che c'è un bel albergo 3 stelle qui fuori, E niente, è così. Come è si finita. Dice gufo in inglese? Non lo so. Hawk, no, falco, all, non so, all, gufo, vabbè. Allora, dai ragazzi, alle 6:35 minuti, è stato un bel derby. E qui, caro direttore di oggi, abbiamo Adinolfi che non sa in che situazione si è messo. Lui che definisce caproni i nostri ascoltatori, più o meno, quando è generoso. Caproni quando sono gentile, direi. Io sono latitanti, non c'è uno dalla Colombia che ci sta scrivendo in questo momento, no? No, vediamo. No, per il momento no. Di solito c'è uno dall'Australia che ci scrive. Dall'Australia. Però a quest'ora dorme, sono il nostro tesoro, i nostri ascoltatori dall'estero. Però vedrai che tra poco sarai poco soddisfatto. Allora, andiamo ad aprire il Parlamento. Come ragazzi, avete capito, il caffè, sopra così, siamo con l'arrogante Mario Dinolfi e con il direttore di oggi Umberto Brindani. Allora, partiamo dalla Germania. Certo che Brindani, noi ridiamo e poi abbiamo la Merkel che si candida per la quarta volta, altro che i nostri. Si candida per la quarta volta perché come succede spesso da noi non c'è alternativa, quindi sì. Lei se ne rende conto. E devo dire una cosa, si candida anche perché risulta meno antipatica di alcuni dei nostri che magari non si ricandidano. Quindi lei ha paura di stancare, dice, ho paura sì, di stancare. Sì, insomma, però. Anche lei dopo la quarta volta direi che ha un pochino già stancato. Sai che si sprecano i titoli? Guarda qua il tenero libro, la Merkel si candida per il quarto Reich. Questo vabbè, al Libero non è simpatica neanche al giornale, si sa. Caro Marione, altro che i nostri, Ma in compenso è saltato star così come un tappo di champagne, dai, mettiamoci questa. È vero. Si ritira a vita privata, cambio vita, ha detto. Ha perso le primarie francesi, poi con Carla Bruni. Ci suona pure le canzoncine tutti i giorni, non è più Carla Bruni di 20 anni fa, esiste pure quella. Anche Sarkozy l'hai visto, non è più. No, metti che ha pure perso le primarie, sono facendo una giornata divertente in Europa, ecco. Ora tu alle 8:30 c'è Renzi, ma che ci frega, facciamo da riempitivo io e Brindani. Vabbè, prendiamo tempo. Ma assolutamente, è un spazio qualsiasi, insomma. Chiamiamola G-Com. Mamma mia, sta storia della par condicio. Un giorno, Brindani, scriviamo una cosa a quattro mani sulla par condicio. Adinolfi, no, lo teniamo fuori. Sulla par condicio. No, meglio fuori, Marione. Meglio fuori. Sulla par condicio, un giorno cosa scriveremo sulla par condicio? Che ne pensi? Tu sei a favore della par condicio, magari? Ma stai scherzando? No. A parte che nei giornali di carta la par condicio non esiste. Per fortuna non esiste, come dire, ci facciamo guidare dal buon senso, ecco. Sì. Questo è il punto. Vabbè, applicata come è applicata per i mezzi radio televisivi, ma sono una follia. Effettivamente un po' sì, un po' sì. Però, caro Marione, dai, facci un pronostico. Hai fatto il pronostico di Trump. Tanto non sono sondaggi, non è il rispetto della par condicio. C'è il rispetto della par condicio, c'è. Poi ogni volta che dirà no, Marione, io dirò sì. Se dice sì, io dico no, subito, al solito. Io voto no, ma sì. Credo vinca il sì alla fine. No, insomma, io riequilibrato. Allora, sì, tu come, voti... come quelli della Brexit e quelli di Trump, alla fine, che poi si pentono. Alla fine no, tu dici che vincerà il sì. Io voto no, però devo dire che credo che le leve del potere in mano a Renzi nel suo piano della comunicazione in questo momento siano talmente enormi che abbia buone chance. Le leve del potere, ma che vuol dire? Cioè, non è Beh, se c'hai una Rai che ti fa quello che ti fa in questo momento, oggettivamente se ti arrivano messaggi continui indicati in una certa maniera, c'è una buona possibilità di muovere voti, ragazzi. Non è che adesso è una cavolata, i media muovono voti, non è una stupidaggine, questa è una cosa vera. L'abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni, no? Insomma, sì. C'è chi è capace di muovere i voti se usi bene, in maniera non stupida, le leve della comunicazione. Se ce l'hai a favore, non è un male, diciamo. No, io non lo so perché non guardo tantissimo la TV. È così, Brindani invece la guarda molto. C'è una Rai un po' spiaggiata? Ma non so, non la guardo tanto neanche io. Guardo le partite di calcio. Vabbè. E ci sono i telecronisti che sono per il sì, no. No, non. Non lo so se la TV muove i voti o non li muove, insomma, certo che c'è da domandarsi quanto valgono i sondaggi, ecco, perché come non ne hanno azzeccata una negli ultimi anni, sì. Chissà se vince davvero o no, me lo domando. I sondaggi sono fermi a 3 giorni fa, adesso da questo momento non si possono più divulgare sondaggi. Ma possiamo parlare dei sondaggi fermi a 3 giorni fa oppure è vietato? Sai che non lo so, nel dubbio io mi asterrei, nel dubbio ci asteniamo che non è anche una questione da par condicio, astenersi va benissimo. Allora, però c'è un signore che abbiamo ospitato anche settimana scorsa, è il signor De Luca, a me sta sempre simpatico, perché tra l'altro il lunedì di solito lo mettiamo in queste, voi dovreste vederlo in queste sue lunghe interviste che fa all'Ira TV, è una TV locale. Ma è l'apostrofo? No. L'ira. La cara vecchia lira. L'Ira TV. Sentite il buon De Luca, eh? Sentite il buon De Luca. Io intanto devo ringraziarla per la sua pazienza, no? A volte lei mi fa fare questi monologhi. Ma ci mancherebbe. Qualcuno dice perché ci sono suoi colleghi che passano la vita a interrompere ogni 10 minuti. Lei o perché conosce il senso della storia, o perché non se ne frega niente, però mi fa parlare a ruota libera. In ogni caso, ogni 10 minuti, cioè, De Luca si lamenta che qualcuno lo interrompa ogni 10 minuti, hai capito, Brindani? Ma io non immaginavo che fosse un'intervista, pensavo che fosse dei monologhi. No, c'è un giornalista che è ripreso di spalle, che tiene il microfono e noi lo prendiamo sempre in giro. Forse si riferiva a noi perché mi immaginavo De Luca che al primo approccio di intervento gli dice muto e lo ringrazia, ma c'è gente che mi interrompe ogni 10 minuti, capito Marione? Invece... il momento più bello è lui che dice ci mancherebbe presidente, il giornalista che è il sussulto nel momento in cui dice due parole, dice ci mancherebbe presidente, 3 parole. Ma attenzione, De Luca è diventato, a parte per l'uccidio della Bindi eccetera, è tornato agli onori della cronaca per questa riunione che ha fatto con alcuni sindaci e che è stata registrata e nella quale dice così, dal Fatto Quotidiano. Quanti sono il 50% degli elettori? Quanti sono? 7.000, 6.000, 5.000? Come? 8.000. Beh, l'impegno che assume formalmente qui davanti a voi Franco Alfieri è di portare a votare 4.000 cittadini di Acropoli in blocco, armati, con le bandiere, la Madonna, entusiasti. Ma voi, allora muoviti tu come Madonna devi fare, offri una frittura di pesce, Acropoli, dice Canzaccio, sbacci in Madrid, le parti, idiot, fai il cazzo tu, solo tu devi portare 4.000 persone a votare, se ne porti uno in meno, sei condannato. Vabbè, qui, caro Brindani... No, perché la questione in realtà per molti è serissima, cioè la questione, ma De Luca, ma che cosa fa? È voto di scambio? Cioè che personaggio è Vincenzo De Luca, secondo te? Innanzitutto è un personaggio, come dire, che ci dà modo di divertirci, questo è sicuro. No, mi fa abbastanza ridere che stamattina su qualche giornale il sindaco che porta 4.000 voti ha detto: sì, è vero, porto 4.000 voti, ma non è clientelismo. Non è clientelismo. Ha detto anche: ho fatto qualche raccomandazione, ma alla maniera di Moro, carità cristiana, sì, Aldo, esatto. Moro, sì, vabbè. Questo è, però non lo so, Marione, è un imbarazzo per il Partito Democratico, uno che stravince peraltro, uno che dice, pare, non me ne frega niente se state con Renzi o no, lui ci porta i soldi, questo dice. Infatti il passaggio più interessante di quella registrazione è quello sui soldi, la frittura di pesce è abbastanza colorita, ma neanche mi meraviglia più di tanto, l'elemento in cui dice ci dovevo dare perché qui c'è un fiume di denaro che arriva, quello è un pochino più interessante. L'elemento complessivo, ma non il politico territoriale, deve far arrivare i soldi dal governo centrale, mi stai chiedendo, certo, è un suo, diciamo, lavoro, ma il governo centrale non può utilizzare i soldi per irrorare un territorio a proprio consenso. Questo è il problema centrale di questa campagna del presidente. Se tu utilizzi la cassa pubblica, è il dramma di questo paese, Il dramma di questo paese è che per costruire consenso si è fatta spesa pubblica. Cioè, tu dici al contrario, nel senso che De Luca può chiedere, ma è da un governo centrale che dovrebbe dire. Questo è chiaro. Che il territorio chieda è naturale, che il governo centrale debba sapere che non può utilizzare gli strumenti, meno che mai in fase di campagna referendaria o elettorale determinante, usando il denaro pubblico per costruire consenso. Questo è il problema strutturale delle classi dirigenti italiane. Il motivo per cui hai 2 miliardi 300 milioni di debito pubblico, questo è il motivo, e poi questo paese purtroppo è il paese che è. Cioè il clientelismo. Ma non è neanche clientelismo, è la struttura mentale del clientelismo. Io vengo a chiedere la raccomandazione tutta subito, mi usi. Il meccanismo è ancora più tremendo, io ti mando a milionate di persone in pensione a 40 anni, perché questo è successo in questo paese, perché così costruisco la base di consenso su cui rendo stabile il mio potere. E questo comportamento dura da decenni, e questa è la tragedia della classe dirigente. E questo un po' nell'audio di Luca, cioè, per cui quando senti Merkel che si ricandida, dice: ma ricandida in Italia, Merkel, ma per favore, a me lo il dici. Dramma di a questo me. Paese è questo qua. A me lo dici che un po' di tempo fa avevo detto: consegnerei le chiavi della casa Italia alla Merkel. Sono stato subissato da insulti. Brindani mi hanno detto: dai, casa tua. I tuoi ascoltatori, ma così, così lucidi e così preparati. Allora, dici Brindani. No, però non puoi neanche pensare che, cioè, è anche compito del governo centrale stanziare dei fondi, no? Sì, però così, voglio dire, sembra... Un conto è stanziarli legittimamente, un altro conto è se De Luca se ne appropria, diciamo, usandoli a fini elettorali. Ma qui la sensazione, almeno da quello che dice De Luca, è: non ce ne frega se vi piace Renzi o no a tutti i sindaci. Votatelo perché lui ci riempie di soldi, gli abbiamo chiesto i soldi e ce li dà. Allora il dubbio, poi lo chiederemo a Renzi. Il dubbio è questo: che ci sia uno scambio, è una sorta di scambio, no? Hai il dubbio? Vabbè, il dubbio. Che ti devo dire? Allora andiamo al traffico, poi dopo Marione, ascolta un po', stai qua. A Milan io voglio sentire il traffico. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Comunque una cosa è certa: De Luca for President. De Luca for President. Milan, ma ti sta proprio simpatico De Luca, che gli fai sempre lo sconto a quel testa di pip. Amici elettori, amici elettrici, se voterete sì ci sarà io pelo per tutte. Noi abbiamo fatto una chiacchierata con Renzi, 270 milioni di euro per Bagnò e ce li ha dati, altri 50 milioni e ce li ha dati. terra dei fuori, mezzo miliardo di euro. Quando abbiamo discusso questa cosa, lui era terrorizzato, perché dice: se facciamo mezzo miliardo di euro per la campagna, la Lega Nord ci fa a pezzi su tutto il centro nord. Abbiamo chiesto finanziamenti per la Reggia di Caserta, per Pompei, per il Colano, per Pesto, sono arrivati fiumi di soldi. Capito Brindani? Questo è. Ma non riesco a scandalizzarmi. Cioè, abbiamo chiesto soldi per la Reggia di Caserta, per Pompei, per il Corano, sono arrivati. E beh, qual è il problema? Cioè, il problema è che. Dice, fa il suo lavoro dai, per la Regione Campania. Non facciamo gli ipocriti come se tutto fosse. Dovesse essere perfetto. Gli ha chiesto i soldi per. Non gli ha chiesto i soldi per se stesso, sì. Ha chiesto i soldi per delle opere di pubblica utilità. Cosa c'è di sbagliato in questo? Diglielo, ipocrita, diglielo ad Adinolfi, non avere paura che tanto lo insulta i nostri ascoltatori e quindi insomma par per sfogarci. Il problema è che non ce li abbiamo, questo è il piccolo problema, i soldi non ce li abbiamo e noi le votazioni li facciamo a debito. Io capisco il discorso del direttore di oggi, il nostro Umberto Brindani, a dire non è che gli ha detto, voglio dire, io gli porto i voti e lui mi dà i soldi, non è una roba così palese. Non è Achille Lauro che ti dà la scarpa... È un modo di dire a noi piacere, a me piace Renzi, dice De Luca, perché ci dai i soldi per la campagna. Perché ci dai i soldi per la campagna? Che devi fare? Sì, dottore, il nostro bilancio è talmente florido, ma io sono d'accordo col direttore, ma ci sono molte opere di pubblica utilità che in questo momento servirebbero, raddoppiare le pensioni, rendere tutto molto più meraviglioso, ma i soldi non ci sono, le classi dirigenti virtuose sono quelle che spiegano al paese che bisogna stare lì a guardare quello che c'è, perché se spendi quello che non c'è prima o poi qualcuno la paga. Guarda intanto qua la Rai di cui parlava Adinolfi, pagina 2 del Fatto, c'è la Meloni che denuncia questo: abbiamo registrato un faccia a faccia con Verdini sul sì e il no al referendum, ma da TG2 al TG2 non lo mandano in onda a Rai 2 perché dicono che Verdini è impresentabile. Ho capito che dicono Verdini è impresentabile e quindi oscurato il dibattito. Beh, non è male questa. Bellissimo. Questa è la versione di Giorgia Meloni, però insomma dice c'è stato questo faccia a faccia e poi mi hanno detto ma no, ci sono dei problemi. L'audio non è venuto bene. Alessandro, ma non facciamo una prece per Stefano Parisi che vuole andare avanti da solo? Sì. Stefano Parisi, partito, impallinato da Berlusconi, ha detto mi faccio un partito, cioè, no, ha detto vincerò senza un partito, come Trump. Sì. Porca miseria, ragazzi, vabbè. No, l'importante è credere in se stessi. Ma Marione, allora, come stai? Tutto a posto? Beh, che randellata devi dare? Insulti i nostri ascoltatori e quindi io ho invitato i nostri ascoltatori a mandare messaggi, invito a farlo nuovamente, al 349-238-6666. È un numero WhatsApp dove potete mandare i vostri audio. Che ne pensa i nostri ascoltatori dei caproni che gli dà Adinolfi? Senti un po'. Ciao Marion. Mega dito il Milan, che ti teme dato del cavron? Allora mi te dico una cosa, la mattina che tutte ste macchine, perché te venmi in mezzo alla strada a dirigere un posto traffico, ah? Caro Marione, che mi dai di caprone, sei veramente uno zuzzerellone. Caro Adinolfi, noi saremo anche dei pecoroni, ma tu col tuo accento romanesco puoi fare solo er pecoraro. Se un ascoltatore deve sentire Radio 24 per farsi dire caprone da uno che già è caprone, chiudo la radio e non la sento più. Caprone ci sarà lui. Maria, sono Anacleto. Ho sentito stamani parlare col cignale di Adinolfi e offendere anche noi che ci sta a sentire. Qui in provincia di Pisa tutti gli anni fanno una festa per chi pesa di più. Bisognerebbe che venisse anche lui qua. Può vincere l'Oscar del peso più grosso. Marione. Vabbè, è divertente, però, tutto sommato è divertente. Grande eleganza e dignità dei tuoi ascoltatori, a parte quello del cinghiale. Sì, abbiamo messo in onda quelli. Che puoi mettere in onda? Dovresti fare una cosa tipo Radio Parolaccia, non hai le palle, capito? Vabbè, adesso se la prende con me, vedi? Avete capito? Se la prende Radio con Parolaccia facevamo, era più divertente.